Grafton Street, tutta allegra, con le sue tende spiegate, allettava i suoi sensi. Tessuti stampati, signore tutta seta, spose e vedove, tintinnio di bardature, tonfi di zoccolo in registro basso sul selciato bollente. Che popò di piedi ha quella sposa con le calze bianche. Avrei piacere che la pioggia gliela infangasse. Una mangialardo di provincia. C'erano tutti i polpacci grossi. Da sempre il passo pesante a una donna. Molly sembra fuori squadra. Passò, gingillandosi, davanti alle vetrine di Brown Thomas tessuti, cascate di nastri, vaporose e sete cinesi. Un'anfora inclinata versava dalla bocca un fluto di popelin sanguigno, sangue lustro. Furono gli ugonotti a portarli qui. La causa è santa, tari tarà. Che coro quello. Tarà tarà. Deve essere lavata con acqua piovana. Meyerbeer. Tarà bom bom bom. Punta spilli. È parecchio che minaccio di comprarne uno, infilati dappertutto, aghi nelle tendine. Si scoprì un tantino l'avambraccio sinistro. Graffio, quasi scomparso. Comunque non oggi. Devo ritornare per quella lozione. Forse per il suo compleanno. Giugno, luglio, agosto, settembre, l'8. Ci sono quasi 3 mesi. E poi forse non le piacerebbe. Le donne non raccolgono mai gli spilli, dicono che porta male. Sete brillanti, sottovesti su asticelle di ottone, calze di seta a raggiera. Inutile tornare indietro. Doveva succedere. Dimmi tutto. Voci alte, seta calda di sole, tinnule bardature, tutto per la donna. Focolare domestico e case, tele di seta, argento. Ricche frutta saporose da Giaffa, Agendath Netaim, ricchezza del mondo. Una calda opulenza umana gli avvolgeva il cervello. Il suo cervello cedeva. Profumo d'amplessi tutto lo pervadeva. Con famelica carne oscuramente, mutamente bramava d'adorare. Duke Street, eccoci qua. Devo mangiare. Al Barton. Poi mi sentirò meglio. Svoltò l'angolo di Cambridge, ancora perseguitato. Tinnuli tonfi di zoccoli. Corpi profumati, caldi, pieni, tutti baciati. Cedevano. In alti campi estivi, arruffata erba premuta, intrasudanti androni di casamenti, sopra divani, letti scricchiolanti. Jack, amore, cara, baciami, reggi, tutto mio, amore. Con cuore agitato sospinse la porta del ristorante Barton. Il tanfo gli tolse il tremulo fiato. Sugo di carne piccante, risciacquatura di verdure. Guarda il pasto delle belve. Uomini, uomini, uomini. Appollaiati sui seggiolini alti del bar, cappelli spostati all'indietro, ai tavoli chiedevano altro pane compreso nel prezzo, ingurgitando. Ingollando sorsate di sbroda, gli occhi sporgenti, pulendosi baffi umidi. Un giovanotto pallido dal viso color sugna forbiva bicchiere, coltello, forchetta e cucchiaio col tovagliolo, un'altra infornata di microbi. Un uomo col tovagliolo da bambino macchiato di salsa rimboccato intorno al collo spalava minestra gorgogliante giù per la strozza. Un uomo risputava qualcosa nel piatto, cartilagini semi-masticate, gengive, niente denti per masticarle, biascia bistecca dalla griglia. S'ingozzano per farla finita, occhi tristi di beone. S'è cacciato in bocca più di quel che può mandar giù. Anch'io son così. Vedersi come ci vedono gli altri. Uomo affamato, uomo arrabbiato, denti e mascelle al lavoro. No, ho un osso. Quell'ultimo re pagano di Irlanda, Cormac, nella poesia in classe si soffocò a Sletty a sud del Boyne. Chissà cosa stava mangiando. Qualcosa di leccornioso. San Patrizio lo convertì al cristianesimo, però non riuscì a mandarlo giù tutto. Roast beef e cavolo! Uno stufatino. Odori d'uomini. segatura sputacchiata, fumo dolciastro tepidiccio di sigaretta, lezzo di tabacco da masticare, birra versata, piscio umano birroso, rancidume di fermentazione. Gli si rivoltò lo stomaco. Qui non manderei giù un boccone. Quello che arrota forchetta e coltello per mangiare tutto quello che ha davanti, il vecchio che si stuzzica ed intucci, piccolo rigurgito, pieno, ruminamento, prima e dopo, benedicite dopo il pasto, guarda questo ritratto, e poi quest'altro, assorbono il sugo dello stufato con pezzettini di pane spugnoso. Leccalo dal piatto, amico. Andiamocene. Dette un'occhiata in giro ai mangiatori seduti a tavola e sui seggiolini, stringendo le narici. Due scure qua. Uno di carne in conserva con cavoli. Quel tale che si rimpinza di cavolo col coltello come se ne andasse della vita. Bel colpo. Fa venir la pelle d'oca a guardare. È meglio se mangia con tutte e tre le mani. Lacerarlo brano a brano. Una seconda natura in lui, nato con un coltello d'argento in bocca. È spiritoso, mi pare, oppure no. Argento vuol dire che è nato ricco, nato col coltello, ma allora l'allusione va perduta. Un cameriere mal succinto raccoglieva i piatti acciottolanti vischiosi. Roc, capo usciere, ritto al bar, soffiava via la corona di schiuma dal boccale. Bene in alto, gialla ricadde vicino alla scarpa. Un cliente, coltello e forchetta inalberati, gomiti sulla tavola, pronto per una seconda portata, fissava il montacarichi al di sopra del rettangolo macchiato del giornale. Quell'altro gli diceva qualcosa a bocca piena. Ascoltatore benevolo. Chiacchiere conviviali. L'ho visto nella banca Ulstam lunedì. Ah sì? Davvero? Mister Bloom, dubbioso, alzò due dita alle labbra. I suoi occhi dissero: Qui no, non lo vedo. Fuori, non posso soffrire i porci a tavola. Indietreggiò verso la porta. Uno spuntino leggero da Davy Byrne. Tappabuchi. Per tenersi in piedi. Fatto una buona colazione. Arrosto con purè! Una pinta di scura! Ognuno per sé, coi denti e con le unghie. Am, am, am. Pappatoria. Uscì all'aria più pura e tornò verso Crafton Street. Mangiare o esser mangiati. Ammazza, ammazza. Figuriamoci quella cucina in comune che forse avremo un giorno. Tutti trottan giù con scodelle e gavette da riempire. Ne divorano il contenuto per la strada. John Howard Parnell, per esempio, il prevosto di Trinity, tutti figli di mamma. Non parliamo dei prevosti e di quello di Trinity. Donne e bambini, fiaccherai, preti, parroci, feldmarescialli, arcivescovi, da Aylesbury Road, Clyde Road, i quartieri operai, sindacato di Dublino Nord, sindaco nella carrozza di pastafrolla, vecchia regina sulla sedia a rotelle. Il mio piatto è vuoto, dopo di lei col nostro nappo municipale, come la fontana di Sir Philip Crampton. Leva i microbi col fazzoletto. Il prossimo ce ne rimette sopra un buscherio col suo. Padre O'Flynn li farebbe correre tutti, però ci sarebbero liti lo stesso. Ciascuno pensa a sé. Bambini che fanno a pugni per il fondo della pentola. Ce ne vorrebbe una grande quanto Phoenix Park. Se ne tirerebbero fuori filetti e cosciotti con gli arpioni. Non posso soffrire la ressa. Al City Arms Hotel, la table d'hôte, come la chiamava lei, minestra, pietanza e dolce. Non si sa mai di chi si masticano i pensieri. E poi chi rigovernerà i piatti e le forchette? Forse allora tutti si nutriranno di pasticche. I denti peggioreranno di giorno in giorno. In fondo c'è qualcosa in quel buon sentore vegetariano di cose che vengono dalla terra. L'aglio, naturalmente dopo puzza. I suonatori d'organetto italiani, sempre con quelle cipolle, funghi, tartufi. Si fa male agli animali anche. Spennare e sbudellare un pollo. Povere bestie, lì al mercato del bestiame, che aspettano di farsi spaccare il cranio con la mazza. Muu! Poveri vitellini tremanti. Meh! Sanatino. Manzo e cavolo impanati e fritti. le secchie dei macellai, traboccanti di tremule regaglie. Mi dia quel taglio di petto appeso all'uncino. Plap! Testina e ossa sanguinanti. Pecore scuoiate con gli occhi vetrosi appese per i piedi. Grugni di pecora avvolte in carta sanguinolenta che sgrondano gelatina dal naso nella segatura. Via i rimasugli e gli schisi. Non rovinare quei tagli, giovanotto! Raccomandano per la tisi sangue ancora caldo. Sangue ci vuole sempre, insidioso. Leccarlo ancor fumante, zuccheroso e spesso. Spettri famelici. Ah, ho fame! Entrò da Davy Byrne, locale per bene, lui non chiacchiera. Ogni tanto offre da bere, ma una volta ogni 4 anni al bisestile. Una volta mi ha incassato un assegno. Cosa prendo ora? Tiro fuori l'orologio. Vediamo ora. Birra? Gassata? Hola, Bloom! Disse Nosey Flynn dal suo angolino. Hola, Flynn! Come va la vita? A meraviglia! Vediamo, prenderò un bicchiere di Borgogna e poi vediamo. Sardine sugli scaffali. Sembra di sentire il sapore a guardarle. Un tramezzino. Prosciutto e sua progenie panati e senapati qui. Pasta di carne. Una casa cos'è se la pasta di carne Plumtree non c'è? Incompleta. Che pubblicità stupida. Sotto gli annunci mortuari sono andati a cacciarla. Plumtree vuol dire susino per salirci su tutti. Pasta di carne di Dignam. I cannibali la mangerebbero con limone e riso. Il missionario bianco è troppo salato, come carne di maiale in salamoia. Immagino che il capo si mangi il boccone del prete. Dovrebbe essere coriaceo per via dell'uso. Le mogli in fila per vedere che effetto fa. C'era un vegliardo negro regnante che mangiò o cosò il coso di padre Cozzante. Quando c'è, è una casa da re. Dio sa che popò di pasticcio. Reti, trippe ammuffite, gargarozzi attorcigliati e sminuzzati. Rompicapo a trovar la carne. Kosher. Mai carne e latte insieme. Igiene, la chiamano ora. Digiuno di Yom Kippur, pulizie primaverili delle budella. La pace e la guerra dipendono dalla digestione di un individuo. Religioni. Tacchini e oche di Natale, strage degli innocenti. Mangiare, bere e stare allegri. E dopo i posti di pronto soccorso affollati, teste fasciate. Il formaggio fa digerire tutto meno se stesso. Formaggio bacoso. C'è un tramezzino al formaggio? Sì, signore. Mi piacerebbe anche qualche oliva, se ci fosse. Le preferisco italiane, un bel bicchiere di Borgogna. Lo porta via, lubrifica, una bella insalata, fresca come un cetriolo. Tom Kernan la sa condire, ci mette il tocco da maestro, puro olio d'oliva. Millie mi servì quella cotoletta con un po' di prezzemolo. Prendere una cipolla spagnola. Dio fece il cibo, il diavolo i cuochi. Gambero alla diavola. La moglie? Bene? Benissimo, grazie. Allora un tramezzino al formaggio. Gorgonzola ne avete? Sì, signore. Nosey Flynn sorbiva il grog. Canta di questi tempi? Guarda che bocca. Si potrebbe fischiare nell'orecchio. E per giunta orecchio sventola. Musica. Ne capisce quanto il mio portiere. Però è meglio dirglielo. Niente di male. Pubblicità gratuita. Ha il contratto per una gran tournée alla fine del mese. Forse ne ha sentito parlare? No, così si deve fare. Chi lo organizza? Il barista serviva. Quanto viene? 7 pence, signore. Grazie, signore. Mr. Bloom tagliò a strisce il tramezzino. Padre Cozzante, più facile di quella roba tutta sognante e cremosa. Le sue mogli al palazzo n'ebber molto sollazzo. Senape, signore? Grazie. Applicò sotto ciascuna striscia, sollevandola, grumi giallastri. Molto sollazzo ci sono. Che gli crebbe e divenne gigante. L'organizza? Disse. Beh, è una specie di società, vede, con partecipazione alle spese e agli utili. Ah, ora mi ricordo. disse Nosey Flynn, mettendosi la mano in tasca per grattarsi l'inguine. Chi era che me ne parlava? Non c'è di mezzo Blazes Boylan? Una bolla d'aria calda di senape colpì al cuore Mr. Bloom. Alzò gli occhi e incontrò lo sguardo di un orologio bilioso. Due. Orologio di bar, 5 minuti avanti. Il tempo che passa. Le lancette che si muovono. Due. Non ancora. Il diaframma spasimò sollevandosi, discese entro di lui, spasimò più a lungo, vogliosamente. Vino. Gusto odorò il succo generoso e, ingiungendo fermamente al suo esofago di accelerarlo, posò delicatamente il bicchiere. Sì, disse. Effettivamente è lui l'organizzatore. Niente paura, niente cervello. Nosey Flynn tirò su e si grattò. Una pulce che fa un bel pranzetto. Ha avuto un bel po' di fortuna, mi diceva Jack Mooney, con quell'incontro di pugilato che Myler Keogh ha vinto contro quel soldato nella caserma Portobello. Per Dio, si era portato quel giovanotto giù nella contea di Carlow, mi diceva. Speriamo che quella goccetta non gli caschi nel bicchiere. No, l'ha tirata su col naso. Per quasi un mese, amico, prima che ci si arrivasse, a succhiare uova d'anatra, per Dio, fino a nuovo ordine. Lo teneva lontano dalle sbronze, capisce? Oh, per Dio, Blazes è un dritto! Davy Byrne uscì di dietro al bar con le maniche della camicia pieghettate, pulendosi la bocca con due colpi di tovagliolo, rosso d'aringa, il cui sorriso scherza su ogni tratto di questo e quello pieno. Troppo unto sui ravanelli. Eccolo qua, e fa faville, disse Nosey Flynn. Ce ne dà uno buono per la coppa d'oro? Non ci sto più, Mr. Flynn, rispose Davy Byrne. Non punto mai sui cavalli. E fa bene, disse Nosey Flynn. Mr. Bloom mangiava le strisce di tramezzino, il pane fresco e bianco, con gusto disgusto, la senape piccante, l'aroma di piedi del formaggio verde. Brevi sorsi di vino gli accarezzarono il palato. Questo non è acqua tinta, è più gustoso con questo tempo che gli toglie il freddo. Bel bar tranquillo, bel pezzo di legno quel banco, ben piallato. Mi piace come si incurva. Non ne vorrei proprio sapere di quelle cose, disse David Byrne. Ne hanno rovinata di gente i cavalli. Lotteria dei vinai, autorizzato alla vendita di birra, vino e alcolici da consumare sul posto. Si è testa vinco, si è croce perdi. Avete detto bene, disse Nosey Flynn, a meno che uno non sia nel giro. Oggi si fan pasticci dappertutto nello sport. Lenehan ne ha di buoni qualche volta. Oggi dava Sceptre. Zinfandel è il favorito, scuderia di Lord Howard Walden, ha vinto a Epsom. Lo monta Morny Cannon. Avrei potuto giocare 7-1 contro St. Amand 15 giorni fa. Davvero? Disse Davy Byrne. Si avvicinò alla finestra e prendendo il libro cassa ne scorse le pagine. Avrei potuto, perbacco, disse Nosey Flynn tirando su con il naso. Era un bel cavallo. Il padre era Sanfrus Can. Vinse durante un temporale la puledra di Rothschild col cotone nelle orecchie, giubba azzurra e berretto giallo. Accidenti a Big Ben Dollard e al suo Giano Gaunt. È lui che mi ha sconsigliato, davvero. Beve rassegnato, scorrendo con le dita sulle scanalature del bicchiere. Davvero, disse, sospirando. Mr. Bloom, masticando in piedi, osservò il suo sospiro. Nosey tontolone. Devo dirgli di quel cavallo che Lenehan lo sa già. Meglio che se ne scordi. Va e ne perde degli altri. Quattrini e cretini non si fanno compagnia. La goccetta ridiscende. Naso freddo avrebbe nel baciare una donna, però le potrebbe piacere. Le barbe che pungono piacciono. Naso freddo dei cani. La vecchia Mrs. Riordan, con quello Skye Terrier dal ventre gorgogliante al City Arms Hotel, Molly lo vezzeggiava in grembo. Oh, il cagnolone! Bau, wow, wow, wow!